che sono arrivato. Ecco qua, 50 watt, dai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei saturo. Vabbè, l'ultimo questo è un saturo. Perché devi capire, la parecchio aperto. Adesso sono 10 watt, se lo chiudo... E ha fatto tipo cosa a me, tipo libero, e lo stavo pulendo dal coso, se lo puoi mettere nel vizi, voglio vedere solo se fate le, come si chiama, la ventola, così poi chiudo tutto e a posto. Daniele, sei arrivato, sono 10. Arriva mai qua. Adesso ti ho sentito, Daniele, adesso arrivi bene. A me mi ascolti? Daniele. Abbassa un po' il processore, Daniele, sei troppo alto. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. È a 1, quello di 1 è adesso. Adesso va bene, poco fare troppo alto. Adesso ti consente, arrivo qua. Uno la ola, prego, c'è. Fa l'entrare, che intanto mi spiego il televisore, se non capisco una fanculo, qua c'è il televisore acceso, aspetta. Chi è ola ola, prego, avanti. Oh. Daniele, mi ascolti? Ehi, Antonio, adesso ti ascolto leggermente più forte di prima, ma di poca roba, E adesso come radio mi ascolti? Ho aumentato leggermente il microfono. Adesso lo senti meglio o lo senti peggio? Guarda un po', Daniele. Non a me, no, a Tonino. Tonino, fa un passaggio. Ok, Daniele, guarda, 1, 2, 3, prova di modulazione. Ho aumentato il volume del preamplificatore. Come vi senti? Ma dove si trova sto Daniele? Ahi, dove si trova? Sono negativo io. Dove sono io, situato? Capito? Ieri, questa zona, Daniele è poi anche coperto un po', perché c'è tutta la montagnetta che c'è più male dentro al paese, capito? Io con muro se ne va bene, a chiedere un ginito, Claudio. Stavo che i tiri non va. Non lo sento più a Torino, Va bene, dai, adesso vi devo salutare a Torino, devo fare commissione, sentiamo più tardi se coincide. Anche io ascolto sempre bene di Daniele. Ok, ciao Daniele, Bongo X. Ciao Daniele, ci sentiamo. Allora, Bongo X, buona spesa, buon tutto, se ne vede da fare la spesa. Cappa di rometro, dai. Puoi far giocare a tutti, ma dopo se coincide, se vi trovo già. Via, d'accordo, non c'è problema. Vediamo se fate la ventola. Vabbè, con il finale sono aperti, quindi già sventiare dal vento che sta entrando da fuori. E tu, Antonè, adesso ci siamo qua. Ah? A votare adesso ci sei. Cioè, con in pratica a capo inghiotto, dimmi. Ho detto se sei andato a votare. Non so più piare in culo. Sono 20 anni che non voto io. La destra, la sinistra, che cazzo se l'ha preso in culo. Non mi hanno mai fatto un cazzo a me, i politici. Quando andavo a chiedere un favore, sì, vediamo, capito, tu vota, fregatela e poi... E invece niente, capito? Nessun favore, una volta che avevo votato non ti conosceva più. Allora ho preso e ce l'ho mandato a cagare. Hai fatto bene, io lo stesso non sono andato a votare e a quanto pare il coro non ha superato Landini, quel pezzo di merda bastardo sindacalista della CGIL. Cazzo, questi si tascava 2,5 milioni di euro, funziona solo vero. Poi l'ha applicato lui stesso, 5 euro più il contratto ai lavoratori. Ora fa schifo, 5 adesso vuole cancellare quello che aveva fatto lui, pezzo di merda. Io mi ricordo che voleva 7-8 euro a contratto per i lavoratori. E allora sai come è fatto? Quando lui in pratica scrivo tutto il sindacato, si becca i soldi, hai capito? Una volta fatto il pugno di lì, poi se ne va in pensione con 30-40 mila euro all'anno, a voglia. Non me la niente anche politica, niente di strano. Comunque lui il contratto l'ha firmato per 5 euro all'ora, la Dini. L'ho visto su internet, quindi era per il tanto. Poi la cittadinanza è il campo di cazzo di negri, ma se la piglia in culo. Fatto bene che non ha superato il culo, ma io lo sapevo già, anche un presidente non andava. Vogliono qui i migranti, capito, per guadagnarci, non per altro. Ogni volta che entra un migrante, viene pagato, quindi è logico che ci guadagnano. E poi una volta che ce li mettono qui a fare quello che vogliono, si lamentano, capito? Prima li vogliono, e la voce di lampa li vola. Se fanno un referendum per buttare fuori sono il primo a firmare. Ma perché? Quando ho messo lì una stavolta di merda con Claudio e Ciampi, hanno chiesto agli italiani un referendum. No, allora tutto è fatto. Ma mi dice la guru, Antonelli. Così quando ogni migrante che prendevi facevi le cooperative 30 euro a migrante, poi ce li mettevano in Tugurio a abitare, oppure li mandavano a lavorare a cogliere i pomodori, posso di prendere 5, 6 euro, 7 euro, ne pigliavano 2, hai capito? Ma poi hai visto, da 10 anni a dare la cittadinanza italiana a 5 anni, ma io non li avrei dato neanche battezzati, tu guarda se puoi andare in Svizzera o in Inghilterra, col cazzo, la zona che conosce la lingua e fare rispettare le tradizioni che sono italiane, loro non lo fanno, fate le padrone no, e se ricevano in questa ex comunitaria 5 anni, allora se ne niente vi ha regato tutti i parenti denti, non avevano più 2 milioni e mezzo, poi diventavano 5 milioni, tutti i parenti, amici e zigati, ma mazzini le vai. I parenti se ci vogliono per forza, il congiungimento con la famiglia, capito? Lo pretendono, il discorso è quello. Invece se ne vanno tutti a galera, se la pigliano in culo, così imparano. Pensa in merda, ci stanno comportando la cazzo in cane qua. Perché se farò riferito, butterei fuori solo il primo da fermare. Sì, speriamo che non faccia qualche altra legge, anzi, avrei preferito che ce l'avessero mandato in Ucraina invece. Invece da qui è mandato in Ucraina, come fa Putin, ognuno che arriva da fuori lo preleva e ce lo manda a combattere. Quasi Putin li vuole Russia, ma come le male i clienti. Caso strano, la Germania non le vuole, la Francia non le vuole. Noi siamo la fattoria, della Modenza, aperto dai clienti qua, verso la Bideco, tutti delinquenti qua, si girano la polizia e se un poliziotto ripara, il giudice in merda, bastardo, figlia puttana, denuncia anche il poliziotto, ma non tendenate, ma dove viviamo? Già lo so, non lo so, purtroppo è così. I poliziotti ormai non conviene più manco farlo, una volta già era un bel lavoro, adesso oramai ti picchiano e devi stare pure zitto, perché ti condannano pure secondo com'è, capito? Se vuoi pagare i danni, cazzo. Quello bello tranquillo, se stai qui ti piglia pure per il culo. Il discorso è quello. E comunque la legge non è uguale per tutti, questi giudici l'avrei condannato io a Andy. Hai sbagliato? In galera vai. A quel poveraccio stato sono 3 tazzi in canna in galera innocente. Questi per omicidio li fanno uscire fuori andare a lavorare, che poi gli ha mandato la camera e poi si è buttato dal Duomo di Milano. Maestro, dimmi tu, l'avrei condannato il giudice e l'avvocato che l'ha fatto uscire. Tutti in mezzo in media. Lo so, il giudice fa la testa sua, già l'hai visto anche con l'ONG, fa come cavolo vuole lui, hai capito? Ma a parte che non la massoneria, l'essere più bastardo al mondo, questo è il giudice, per carità, l'essere più del culo. Io la trano lì, mi dice, libero dei debiti, qualche piccolo debito ha preso un partito fuori. Dove vado, vado, ma si risparmia ancora più di tutti. C'è Cronovacchia, la Scoppia, non lo so, quando cazzo un capiteccio. Porto guarda l'orto, anche loro aumentando piano piano. E vado fuori a Torino subito, fuori da questi miserabili sanguisughe governo. Purtroppo ci abbiamo quelli che ci abbiamo, come noi già lo sai, però ci possiamo fare un cazzo. Noi ce li abbiamo messi e noi ci abbiamo a tenere. Come un governo 5 Stelle, hai visto? Tutti di lì ci hanno svato dei coglioni, si prendono uno stipendio, si fanno tre mandati e via, e ti apri ne mezza. Il discorso è quello. E non morire di fame, ma la gente è più ignorante in Italia, più bastarda, figlia di puttana. Quando mai rompono i coglioni per i ragazzi, per i bambini palestinesi? Ma perché non andate a fanculo? Guarda il tuo senso che l'Italia è messa male. Ci abbiamo le sibilli, cazzo, le pensioni povere proprio, pezzi di merda. Devi guardare gli altri, devono altro che là, c'è stata sempre la guerra santa, sempre in guerra, su se la miglia di culo, se marciano con l'ascio, per carità, invece per casino in Italia di aumentare gli operai che vedono poco stipendio e i pensionati no, guardano gli altri, che cazzo me ne frega dell'ascio? Già è vero, già. Ci dobbiamo tenere così. Ah, che bel 20 c'è lontano che ci abbassiamo bene, sono stato manco d'uomo stanotte. Ma io qua c'ho mettato l'acceso, sto così bene, guarda. Vabbè, tu c'hai il coso. Io qua c'ho quella specie di condizionatore d'aria, le metti l'acqua dentro. Sì, funziona lo stesso. Già rinfresca un po'. No, sai, ma non è già la... non mi costa molto di luce, almeno quello dice di bello. Allora io ho due condizionatori, cucina e camera da letto, ma non ne attacco più perché una volta l'ho attaccato e domani non riusciamo a fare metà, mal di gola ti piace la gola, invece il ventilatore è puntato in alto, ti muove un po' l'aria, vabbè che ti dici che la stessa aria che c'è dentro, però c'è un po' di sollievo. Mentre il condizionatore troppo freddo ti grima la gola, non è tacco mio? Ah, il condizionatore d'aria sì, io sto prendendo il refrigeratore, quello è l'acqua, ci metti l'acqua sotto, ci metti, rinfresca e non ti dà nessun problema per la salute. Capito? È per quello che l'ho preso per Simona. Mi costa proprio poco, no? Mia mano non costava molto. Questo funziona bene. Si infresca e non ti congela. Ci vuole solo il ghiaccio dentro, e metto all'acqua e basta, non ci vuole altro. Tu c'hai quello che ci mette l'acqua fredda, pure il ghiaccio, mezzo all'acqua e c'hai il motorino che tira la pentola e tira l'aria fresca, quello lì c'hai? Quello che dici, esatto, sì, usando quello. Almeno si muove tranquilla. E non le fa male. Ho capito. No, c'è mettato quella gatta gigante, sto così bene. Si risparmia anche corrente, questo pazzo è un condizionatore. È 1400 watt, non la mazza di nevaglia. E questo è potente, no? Ma a parte quello, tanto è, a me mi ha preso la gola e mi ha crepato. Vabbè, quello sì. Allora, ho messo le vittiche, va bene? Adesso oggi se ne va. A me lo sento meglio, se no cazzo, poi diciamo l'altra parlata contro l'aria, non un tuo iaio ascoltare. Ma non c'è nessun altro canale, sembra un buco giù. No, non sento nessun altro, la verità, non c'è nessun altro. Per carità, sarebbe bene anche tu. Ci sentiamo al limite, è normale, là. Ci sono stato procurato perché era fermo più di 2 mesi da Parigi, che sono stato a Modua e non riuscivo a arrivare, ho dovuto aprirlo e pulire i contatti. Che si forma l'ossido, lo si forma dopo un po', poi vabbè, c'ho il baracchino vicino alla finestra, quindi quando lascio la finestra aperta entra la umidità di notte e mi crea quel problema. Adesso già va bene, gli ho messo il CVC e è a posto. Ok, dai, ci sentiamo alla prossima. Adesso più tardi posso anche accendere, se siamo più, e beh, ci ho consiglio. Ok, ciao Antone. E ciao. Bellino, buttaci la pasta, che provo.